pietra portante uscire. No, entra, no, entra. Non credete, non puoi uscire. Entra, no, entra, no. Sta qui, si prende, non so che qui. No. Se verità, nascondi, nascondi. Aprite la porta, vuole, vuole uscire. Resta, no, resta, no. Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo vostro rabiris! E là? Non c'è. Per Dio ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you.

a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Tu l'adori. E un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Vedi, vedi, ti vinco! Presto giù, perché te! Oh, che cosa fare? Che devo darvi? Oh, no! E la mattia! Vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto giù, io chiedo per pietà! Partiva e per la casa.

voi quest'uomo? Perché sia dato alla comunità? Faccia essa giustizia. Buona fortuna, o mio bel gentiluomo. E così, Mr. Johnson, come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Ora che facciate presto! Quanto a questo, bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti, vero? Palazzo, corre, hai saccheggiato tutto il paese! Accobandallato, rubato e ucciso! No! La squadra di monte rebandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane! Pugni nostre spalle, il povero Tony! No! Non è vero! Sì! Non mi dice la valle, ucciso un postiglione! No! Assassino mai! Alla polca, quella notte venisti per rubare con gli occhi e sorriso di vigna riservati e lei ci ha rubato e ha rubato con le tir da casse e ha risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto sciogliete un braccio, mi scozzo di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Lontano, solo Lasciatela, Andiamo, ragazzi! Non 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。